4 dicembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 4 dicembre. Sono 5 giorni che i miei genitori sono partiti, ma Virginia ha mandato oggi un telegramma pregandoli di anticipare il ritorno. Ella va dicendo a tutti che se seguita a rimaner sola con me si ammalerà certamente. E io intanto perderò anche questa volta la bicicletta. E perché? Perché ho la disgrazia di avere una sorella nervosa che di nulla nulla si spaventa. È giusta? Fine del 4 dicembre.